Van Helsing è un uomo di parola, fa sempre quel che dice fin dai tempi della scuola. Il suo nome è certo, non è lieve da portare, il suo destino a volte lo fa un poco vacillare. Nato puro in un mondo pieno di incubi e di mostri, potrebbe scegliere di fuggir, ma non sarebbe lui. Nato forte in un mondo di pavidi e indisposti, potrebbe scegliere di fuggir, ma invece sarò forse un pessimista, non avrò una buona vista. Sì, lo so, vedo tutto nero, non è certo un gran mistero, però affilo ogni notte le lame di Don Chisciotte. Dormi pure, dormi amore, ci penserò io all'orrore. Abramo Van Helsing non si cura d'esser solo, d'esser creduto pazzo, di sentirsi fuori ruolo. Sa che il prezzo da pagare per affrontare il male, sa che dovrà mangiare tanto pane con il sale. Non scelse d'essere così, ma di restarlo questo sì. Chino sulle carte, studia a fondo ogni arte, perché i mostri han paura ad ogni specie di cultura. Potrebbe scegliere di riposar, ma invece sarò forse un pessimista, non avrò una buona vista. Sì, lo so, vedo tutto nero, non è certo un gran mistero, però filo ogni notte le lame di Don Chisciotte. Dormi pure, dormi amore, ci penserò io all'orrore. Ogni tanto una lacrima per gli amici e le donne che ha perso ed ha sperso. Il consumismo è una melma che ingoia ogni verso diverso. Sarebbe più facile cedere all'inganno perverso e introverso, sarebbe più facile andare a capoverso, tradire l'universo. Ma lui sa che ogni cosa facile ha un lato nero sommerso. Chi cede alle lusinghe non vince, è solo un altro disperso. Sappi sempre che anche tu, che anche i mostri avete bisogno di Van Helsing. Sarò forse un pessimista, non avrò una buona vista. Sì, lo so, vedo tutto nero, non è certo un gran mistero, però affilo ogni notte le lame di Don Chisciotte. Dormi pure, dormi amore, ci penserò io all'orrore. Ma mi risveglio ogni mattina, ma mi risveglio ogni mattina ancora.